Non dire di no, mi vuoi come io voglio te. Non dirmi chi sei, di lui e di voi. Parole bene poi, è il tempo ha scelto per voi, ridendoci su, così come fa con noi. Ma io ti voglio adesso ed io ti voglio qui. Sono tu hai, se tremi così, per me ora tu lo fai. E mentre nasci qui, che fragile cosa tu sei, confusa così. Cosa vuoi? Ma io ti voglio adesso ed io ti voglio qui. Sono il tuo cielo azzurro, sai? Chiusi tu hai, se tremi così, per me ora tu lo fai. E mentre nasci qui, che fragile cosa tu sei, confusa così. Ora cosa vuoi?